Pomicino, voglio chiederle una cosa. Quando si dice che ai tempi della DC queste cose non potevano succedere, è vero o no? Cioè, lì era impossibile. Certo, è vero, è certo, è vero, ma ci mancherebbe altro. Chi ci mandavate a chiudere le liste? Erano i nostri funzionari che venivano addestrati a fare i funzionari, quindi erano nelle condizioni non perdere assolutamente il tempo, l'ora, il minuto e quant'altro. Cioè c'erano funzionari, non, cioè, non è che si arrivava, non è che si arrivava 20 minuti prima come sono arrivati questi, no? Assolutamente, erano pronti già prima, erano pronti già una giornata prima, e insomma era, diventava una cosa, anzi si faceva la corsa a chi arrivava per primo per avere il simbolo come primo sulla scheda elettorale. Sempre i comunisti arrivavano primi però, eh? Eh sì, ma come mai arrivavano sempre primi? Come mai arrivavano sempre primi? Dormivano la notte? Perché loro poi avevano un'organizzazione strategica e ferrea, quindi noi avevamo un po' di articolazione interna, come si dice in gergo politichese, e quindi avevamo un po' di contrasti, ma in realtà non eravamo i primi, ma non eravamo neanche gli ultimi. E comunque nessuno di noi è stato mai in discussione, parlo di nessuno dei partiti dell'epoca, perché erano partiti. Adesso sono soltanto liste elettorali, quindi dinanzi a queste cose che avvengono si registra che purtroppo l'Italia non è governata dalla democrazia dei partiti, ma dalla democrazia oligarchica di pochi gruppi di potere che non sanno neanche organizzarsi. Dunque non si può dire si stava meglio quando si stava peggio, perché secondo lei peggio non si stava, insomma, no? Ma questo lasciamo dire agli elettori. Fatto sta che adesso, se tutti sono contenti, io sono contento. Io appartengo a coloro che lavorano per la felicità degli altri. Senta. Se l'Italia è felice, va bene così.